Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. In questo episodio, Bahia. Mi chiamo Lebu Bahia e faccio la mediatrice culturale. Ho ben 35 anni. Quando esco da casa, vedo il mare. Sì, sì. Perché vivo a Pastina, proprio di fronte. La mia giornata come inizia? La mia giornata inizia con il bacio dei miei cuccioli, i miei due figlioli, e poi velocemente li preparo per andare a scuola. In mezzo c'è la fase più frenetica, impegnativa, ma gratificante, è quella del lavoro sicuramente, e finisce come finisce, mi metto a letto e rifletto sulla giornata ormai trascorsa, ma non dimentico il bacio della notte, della buona notte ai miei figli. Mi piacerebbe vivere in un mondo umano e soprattutto che conosca il valore della diversità. Come lingue parlo quattro lingue: arabo, francese, italiano, l'inglese scolastico. No, non sono nata in Italia. I miei sono marocchini. Sì, sì, sono marocchina, ma mi sento che appartengo a tutto il mondo. Quando sto sotto la doccia, la canzone che sento è sempre Soldato Innamorato. Stai lontana da sto cuore e a te volo con pensiero. Niente voglia e niente spera, cadenirti sempre a fianco. Come ricordi posso portare forse i profumi della mia casa e il calore che mi hanno comunicato le persone che amo. Un'altra cosa, non posso dimenticare i bei colori del mio paese. Agli abitanti della pianeta racconto che l'uomo è in sé la potenza sia distruttiva che creativa di benessere, e gli dico che siamo uguali e apparteniamo al genere sempre umano. La cosa più inspiegabile degli italiani, veramente, e che mi dà veramente fastidio, è la tendenza a cercare per ogni problema che l'affligge è un colpevole, senza assumere le proprie responsabilità. Questo. Le cose più brutte del pianeta in cui posso pensare a togliere sono la fame e la disumanità. Per me la parola straniero non esiste, esiste solo per la parola uomo. Il colore più bello nel mondo per me è il verde, perché il colore dell'Islam, ma è soprattutto è la speranza. Quando guardo verso l'orizzonte vedo, cosa vedo? Vedo un bellissimo arcobaleno. Montaggio, regia e suoni di Antonio Cortazzo e Giulio Scalona. Coordinamento tecnico Bahia Lahbub. Per ascoltare e condividere i nostri podcast, vai sulla pagina Facebook di Radio Antenna Migrante o su www.stranierincampania.it. RAM, Radio Antenna Migrante.